cui ci sia una sanatoria, per cui vengano riassegnate le case, eccetera, gli abbiamo detto anche di discutere e di prendere in considerazione le requisizioni, di fare atti di questo tipo dove i presidenti si assumono la responsabilità di requisire gli immobili che stanno in occupazione, che vengono dismessi, e li requisiscono e li assegnano agli inquilini che ci stanno vivendo. Così risolviamo anche una parte di questo problema. Vi abbiamo fatto presente che non esiste dentro a questo municipio una formula per cui chi ha subito uno sfratto, uno sgombero e sta in mezzo alla strada possa trovare una soluzione. Noi la sappiamo qual è, ovviamente, e la riproponiamo e ce la rivendichiamo, però a sti signori gli facciamo presente ovviamente che visto gli piace tanto fa delibere, mozioni, cazzate varie, di mettere in discussione anche questo. Dove sta una soluzione a chi ha subito lo sfratto e lo sgombero? Che soluzione gli viene proposta? Quali sono le alternative? Quindi gli abbiamo detto ragionate anche sulle requisizioni, fate i conti anche con questo. Nel quadro di tutta questa roba qui, oggi è passata sta mozione a fatica, insomma impegna il consiglio, il presidente del municipio a prendere atto del fatto che c'è stata un'emergenza vera dentro il suo quartiere, dettata da tutto quello che ho detto prima, e che quindi si devono impegnare a trovare delle soluzioni, a mettere in discussione tutte queste problematiche e a cercare di proporre delle soluzioni. E intanto questo è un passo che ovviamente a noi non ci accontenta, perché sappiamo che questa può essere roba che rimane carta straccia, che a noi non ci cambia più di tanto niente, però intanto è bene che queste persone, visto l'andamento generale delle cose, cominciano a sentire una pressione da parte dei movimenti di lotta la casa, e cominciano a prendere, devono impegnarsi a prendersi delle responsabilità, a fare qualcosa di concreto. E basta, niente, insomma, ecco, più o meno questo è quello che è successo oggi al municipio, e a noi ci faceva piacere condividerlo, perché questo è un momento complicato e sappiamo quanto si stanno battendo tutti i movimenti di lotta per la casa in città e in questo paese, e ovviamente siamo, insomma, ribadiamo e saremo presenti anche all'iniziativa che è stata proposta per la settimana prossima, sempre in relazione all'articolo 5 della legge Lupi, che appunto prevede di andare a bussare a tutti gli uffici dei municipi di questo paese e a dirgli: signori, dovete prendere delle decisioni in merito alle residenze, in merito all'allaccio delle utenze e tutta questa roba qui, perché non è possibile, cioè la gente non può subire una violenza del genere, perché qui si sta rischiando, cioè in questo quartiere, se tutta la gente che vive in occupazione adesso gli verrebbe staccate le utenze e tolta la residenza, io penso che solo in questo quartiere ci sarebbe una rivolta di svariate dimensioni, perché poi sì, sarebbe veramente una cosa drammatica, sì. Penso anche a livello sanitario, insomma, assolutamente sì, cioè, senza acqua non lo so, boh. C'è già un problema così, già la gente fa fatica, arriva a fine mese così, è stressata e sta fuori da ogni logica, figuriamoci se la porti in condizioni di emergenza sanitaria tale. Cioè, qui la gente quotidianamente sta subendo la presenza dell'ufficiale giudiziario, delle forze dell'ordine che a tratti, come abbiamo detto anche nei precedenti collegamenti con la radio, no, sono presentate le forze dell'ordine direttamente bussando alla porta di casa della gente, tramite il meccanismo per cui adesso alcuni magistrati decidono che l'immobile occupato diventa corpo del reato e quindi passa automaticamente in mano alle forze dell'ordine lo sgombero. Non c'è più tutto il passaggio con l'iter dell'ufficiale giudiziario, che in un certo qual modo a noi ci dava l'opportunità di interagire, di cercare di capire una data, la presenza di questi personaggi, quindi cerca di costruire un picchetto, una cosa del genere. Mo adesso c'è anche quest'altra ansia qui, dove la gente ogni giorno si sveglia la mattina e tira un sospiro di sollievo senza essere trovata 20-30 gioiellerini davanti alla porta di casa. Poi gli vuoi pure staccare la luce, l'acqua, le utenze e togliere la residenza, cioè io penso che tu stai cercando di portare le persone a esasperazione tale che, per quanto ci riguarda, poi ovviamente le conseguenze sono quelle che, se ci riusciamo a immaginare, avendoci insomma idee abbastanza chiare, e poi ovviamente avverrà quello che deve avvenire in merito. Però è chiaro che se la lotta stiamo cercando di portarla avanti con una certa attenzione, rapidità, velocità, cioè cerchiamo di andare a battere il ferro ancora finché è caldo dentro a questi contesti istituzionali, perché questa è gente che adesso deve prendersi delle responsabilità e prendere delle decisioni. Più andiamo avanti e più il problema si farà complicato, ovviamente. Non che questo noi lo teniamo, perché siamo abituati a fare i conti con, insomma, i personaggi e tutto quello che sono, che si portano appresso, però ovviamente è fresca la questione e è bene che questa gente, ora come ora, che c'è ancora una fase molto caotica e confusionaria rispetto a questa legge e agli articoli, siamo a cercare di fargli prendere delle posizioni in modo tale che vediamo pure l'andamento da che parte va. Va bene, dai. Ti ringraziamo, diamo la linea alla Conta adesso, ok? Sì, grazie mille. Grazie per questa importante testimonianza di lotta, insomma. Grazie, grazie a voi. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Cominciano i corsi della prima scuola popolare di lingue al Porto Fluviale. Come and join us! Italiano dal 18 marzo tutti i martedì dalle 15 alle 16.30. Da dal 19 de marzo el español cada miércoles de 20 a 21.30. English class every Thursday from 8 to 9.30. Thursday che? Thursday! Giovedì? Oh yes! Per info e contatti il portoparlante @gmail.com. Questa può essere la nostra ultima battaglia. In caso di sconfitta, non ci sarà salvamento per alcuno. Ognuno di voi ha esercitato questo mestiere con perizia e vero coraggio, e quasi tutti con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze, esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità. Superiore. Quando risponde deve dire superiore. Io non lo sapevo, superiore. Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita. Sì. Scusi, secondino, Secondino una cippa di cazzo, superiore. Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Non si fa educare le persone. È invivibile comunque. Quando uno c'ha paura. Sempre spiato. Paura. Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore. Paura. Casino. Paura. È invivibile comunque. Trova di essere sempre spiato. Non si fa educare le persone. Tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. Fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo. Ma la vita cadi se la dame con la sangue porque tanto yo también cuando tú me hablas toma un cabrón tana mía corazón está sufriendo tana mía por favor. Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. Liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti. È un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno. Liberare tutti vuol dire lottare ancora. E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutti, questa è Radio Onda Rossa, questa è la trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Sono le 15 e 13 minuti in questo momento, un po' in ritardo perché c'è stata la corrispondenza con Magliana che avrete ascoltato per la annosa e ancora non risolta emergenza abitativa, quindi la lotta della casa sicuramente è al centro dell'attenzione oggi per tutte noi, tutti noi in questa città dove veramente regna la speculazione edilizia e quindi l'arroganza dei palazzinari, dei proprietari di case. Ebbene, andiamo avanti, vediamo cosa è successo in questa settimana in carcere. No, in carcere non è successo granché, è successo per quelli che decidono sul carcere. C'è l'annosa vicenda della Fini Giovannardi. Sapete che ne abbiamo parlato più volte, immagino chi ci ascolta dalle carceri lo sa benissimo, la Fini Giovannardi è stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta per i modi con cui è stata approvata e comunque perché non dà i criteri esatti per la battaglia contro gli stupefacenti. Insomma, la questione è che gran parte, non si sa ancora quanti, poi vedremo, sono stati quantificati dal DAP la quantità di persone detenuti e detenute che stanno in carcere per la Fini Giovannardi, quindi stanno in carcere in maniera illegale per ora, quindi dovrebbero uscire, vediamo cosa si sta congegnando. Dunque la Fini Giovannardi è stata dichiarata incostituzionale, quindi coloro che sono stati arrestati per la Fini Giovannardi dovrebbero uscire in quanto stanno in carcere per una legge che non è più legge, che non, quindi non dovrebbero stare in carcere. Allora, ci sono un sacco di interventi in questi giorni, i più interessanti sono quelli del magistrato di sorveglianza Maisto, che è uno dei più anziani, diciamo, magistrati di sorveglianza, ed è anche abbastanza garantista, cioè che, e che dice che lui attualmente presiede il Tribunale di Sorveglianza dell'Emilia Romagna, però è stato anche a Milano, a Firenze, eccetera. Serve un decreto legge, dice, in quanto i tribunali da soli non ce la fanno a eliminare l'ingiustizia delle pene illegittime combinate sulla base di norme dichiarate ormai incostituzionali, come quelle contenute nella Fininger Nardi oppure nell'ex Cirielli. L'ex Cirielli sempre per quanto riguarda il problema degli stupefacenti, cioè l'ex Cirielli punisce la recidiva, lo sappiamo, no? E però se la recidiva riguardava un reato che si viene fatto due volte o più di una volta, quindi due volte o tre o quattro nell'arco di cinque anni, e se questo reato però era inerente alla Fininger Nardi, anche quello diventa illegale due volte, quindi illegittima come ora. E allora dice, il problema qual è? Che attualmente i tribunali riprendono i processi fatti per che hanno processato persone per aver violato la Fininger Nardi, e però dicono questo sarà un procedimento molto lungo, che probabilmente per il quale passa molto tempo, e nel frattempo queste persone rimangono in carcere, per cui sarebbe necessario fare addirittura un decreto legge, un intervento del legislatore con un decreto legge per far uscire tutti quelli. Non è necessario un indulto o un'amnistia, è necessario fare, appunto, basta fare una legge che dica che coloro che sono stati condannati per la Fininger Nardi, quindi per piccolo spaccio, detenzione o altro, dovrebbero immediatamente uscire da galera, in quanto il reato non è più un reato, appunto, quella legge non è più valida. Quanti sono quelli che stanno in carcere per questo reato? Secondo il ministro Orlando, il ministro della giustizia, non è possibile, dice, non è possibile stimare esattamente l'impatto dell'applicazione della sentenza di Cassazione, ossia quanti sono in carcere in maniera illegittima, che quindi andrebbero tirati fuori al più presto. Considerate che per queste cose, quando una legge viene dichiarata incostituzionale, diventa, coloro che appunto sono stati condannati per quella legge, è come se non dovrebbero stare in carcere, stanno in carcere in maniera illegittima. In genere in molti paesi si fanno subito dei provvedimenti ad hoc per sanare questa vicenda, perché queste persone adesso, dal giorno in cui la Fininger Nardi è stata dichiarata illegittima, incostituzionale, sono detenuti in maniera abusiva, quindi quando usciranno hanno tutto il diritto di chiedere il risarcimento per i giorni di galera che faranno in più dal momento in cui, essendo la Fininger Nardi dichiarata illegittima, stanno in carcere in maniera, appunto, non legale. Quindi comunque, dice sempre il ministro della giustizia Andrea Orlando, poiché l'hanno alla Camera, ci sono varie interrogazioni, la Lega, sapete, il partito della Lega Nord ha cominciato a urlare sui suoi giornali ovunque, dicendo che adesso usciranno tutti i peggiori spacciatori, dicendo tra l'altro una delle più grosse castronerie, delle più grosse stupidità che girano in quest'area del mondo e forse anche in altre, quello che dice: adesso usciranno tutti questi spacciatori e quindi costringeranno i nostri figli a drogarsi. Quest'idea balzana presuppone che le persone che fanno uso di stupefacenti lo fanno in quanto costretti dagli spacciatori. Ovviamente non è così. Tutti sanno, anche i sassi di questa città, di tutte le città del mondo, che è la domanda che sollecita l'offerta, cioè è la gente che va a comprare gli stupefacenti, così come qualunque altra merce, così come le birre, il vino, i vestiti, eccetera. È la domanda che produce l'offerta, non è il contrario. Però comunque questi imbecilli hanno detto queste cose qua, e il ministro Orlando, vabbè, ha dovuto quindi rispondere. In realtà loro chiedevano il numero, questa cosa qui nessuno gli ha risposto perché era una clamorosa stupidaggine, però gli ha proposto, ha detto che secondo lui sono intorno ai 3.000 le persone che dovrebbero uscire, in quanto attualmente detenute illegalmente. Questo rispetto alla questione della Fininger Nardi, che però non ha trovato ancora una soluzione. Secondo i radicali, una soluzione che ha trovato, la soluzione che adesso è stata prospettata dal governo, Cioè il governo ha fatto di corsa una legge per sanare la Fini Giovanardi, che ormai è come se non esistesse più perché è stata dichiarata incostituzionale e quindi illegittima, è stata abrogata di fatto. In realtà hanno fatto il decreto cosiddetto Lorenzin della parlamentare che l'ha proposto. È un provvedimento che aggiorna le leggi in materia di stupefacenti recependo le ultime disposizioni. In realtà non ha recepito esattamente ciò che era contenuto nella sentenza della Corte Costituzionale del febbraio scorso, quella che ha abrogato la Fini Giovanardi, e quindi pare che ci sia adesso una confusione tra la tabella 1 e la tabella 2. La tabella 1 è quella che riguarda le droghe pesanti, quindi quali sono le quantità per quali scatta il reato, e la tabella 2 è quella della cannabis e derivati, quindi cosiddette droghe leggere, quelle per i quali non è più possibile, non dovrebbe essere più possibile punire con la galera. Allora, interrompiamo questa bella canzone, ma il tempo stringe, abbiamo cominciato anche in ritardo oggi. Allora, il bisticcio sulle cifre è notevole, perché da 3.000 che la previsione che fa il ministro della giustizia Orlando, quelli che stanno in carcere, il problema è che bisogna individuare se una persona sta in carcere perché per la Fini Giovanardi, quindi per piccolo spaccio o detenzione di sostanze stupefacenti, ed anche per altri reati, mettiamo furto, rapina o altro, è chiaro che è diverso il problema, quindi forse da qui deriva il bisticcio delle cifre, perché mentre appunto il ministro Orlando dice 3.000 unità, altri dicono 8.500 unità, e addirittura il Franco Corleone, che è stato anche sottosegretario alla giustizia qualche anno fa, parecchi anni fa, insomma, credo alla fine degli anni 90, e parla di 10.000 detenuti che dovrebbero uscire. E insomma, bisogna vedere. Certo che intanto queste persone, che dal febbraio sono in carcere in maniera illegittima, chiederanno, dovranno chiedere, spero che lo facciano, quando appena escono di galera, è meglio che prima guadagnano la strada di casa, poi faranno la richiesta di il risarcimento per ingiusta detenzione. Sono sempre i soldi che almeno visto che lo Stato non riesce a mettere nemmeno a rispettare le proprie leggi, perché la sentenza della Corte Costituzionale, che è un organo dello Stato, anzi uno dei principali, voglio dire, andrebbe rispettato immediatamente dal Parlamento e dal Governo, però quindi vedremo. E questo bisticcio delle cifre probabilmente deriva dal fatto che alcune persone sono state sono detenute soltanto per la Fini Giovannardi, quindi per spaccio, piccolo spaccio o delle sostanze stupefacenti, altri insieme ad altri reati. Insomma, vedremo se detenzione, spaccio, cioè la cosa è un po' complicata. Il problema però è che questo fatto qui è stato decisivo, a quanto si sa, però nei sotterranei di Bruxelles, a quanto si sa, per avere la cosiddetta promozione o comunque non bocciatura dell'Italia rispetto alla Corte Europea. La Corte Europea aveva detto che appunto il termine del 28 giugno e il 28 maggio per mettere a regime, secondo le norme del rispetto dei diritti dell'uomo, le carceri italiane. Il ministro Orlando è andato lì, ha portato i dati della diminuzione da 68.000 a 59.000, con tutti i provvedimenti più o meno svuota carcere, più che altro con anche la diminuzione degli ingressi dovuta al fatto che le misure alternative oggi vengono messe anche al momento della sentenza, quindi non passi direttamente in carcere. Questo ha fatto diminuire un po' le presenze, e poi anche questi 3.000 ci hanno messo in conto, che ancora non sono usciti, però hanno detto che, visto che la Fini Giovannardi di fatto è illegittima, usciranno a breve, poi questo breve vedremo, può darsi che hanno gonfiato un po' questi 3.000, che appunto secondo altri sono molti di più, e insomma questo ha fatto promuovere tra virgolette l'Italia. Ma a proposito di quel fatto, ricordate, avrete letto sicuramente tutto il dibattito, ciascuno ha detto la sua, quando la Corte Europea dei diritti dell'uomo non ha sanzionato l'Italia e ha detto va bene quello che avete fatto, quindi ha promosso, hanno detto alcuni giornali, ha promosso l'Italia, rivedendo però la questione fra un anno, a giugno dell'anno prossimo si vedranno i dati. Quindi questa cosa della Fini Giovannardi ha contato molto perché hanno valutato che queste persone comunque usciranno a breve o a lungo, comunque di fatto non dovrebbe, sono persone in via di uscita, quindi 59.000 meno l'altro 3.000 o saranno 4.000, insomma viene intorno ai 55.000. quindi il problema è questo. Tutti hanno detto tante cose, tanto hanno detto va benissimo, tanti hanno detto ma va bene un po', però insomma altri hanno detto adesso bisogna continuare a fare riforme, insomma, tutti hanno detto tante cose, nessuno si è preso la briga di sentire che cosa dicevano le persone in carcere, i detenuti e le detenute. Questa è stata la cosa più grave, più assurda, e probabilmente è la prima volta che in questo paese si parla sulla pelle delle persone senza nemmeno intervistarle per in maniera formale, se volete, nel senso che sarebbe stato opportuno chiedere ai detenuti e alle detenute se le condizioni di vita, dovuti anche a questo calo minimo delle presenze in carcere, cioè alla riduzione del sovraffollamento, abbia portato oppure no dei miglioramenti nelle condizioni di detenzione. Questo avrebbero dovuto chiedere, cioè se veramente da 67.000 a 68.000, come era alla fine dello scorso anno, ai 59.000 di adesso, se veramente la situazione è migliorata nelle condizioni di vita. Probabilmente no. E nessuno ha portato testimonianze di detenuti e detenute che probabilmente avrebbero raccontato che la loro giornata carcerata è abbastanza simile a quella dello scorso anno. E questa è abbastanza triste, vedere come la pochezza, la miseria. E guardate che in carcere i parlamentari ci possono entrare, lo sapete tutti, anche i parlamentari regionali, oltre a quelli nazionali. ci possono entrare anche giornalisti, equip di Fotoreporter e altre, basta che chiedano il permesso al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, cosa che appunto lo danno a questi lo danno con abbastanza facilità, non lo danno ai gruppi di reporter o giornalisti alternativi, ma a questi ufficiali lo danno, e nessuno è andato a sentire che cosa pensavano esattamente le persone detenute, perché sono quelle che bisogna sentire. Questo dimostra, per coloro che hanno questa, come dire, è un po' un'ideologia oggi, una mania di vedere i problemi risolvibili dalle istituzioni, siano esse quelle locali, quelle nazionali o anche quelle internazionali, cioè di dare fiducia al fatto che le istituzioni, un po' con un po' di pressione, possano risolvere i problemi delle persone, siano esse quelle carcerarie, siano esse quelle del lavoro, della casa, abitative, della città, dell'ambiente, eccetera. Non è così, è inutile fidarsi, perché non è che per esempio il disastro delle carceri è avvenuto per dimenticanza, perché hanno fatto un errore, uno sbaglio, non ci hanno pensato. Non è così. Quello può avvenire, cioè la riparazione di un guasto fatto dalle istituzioni e che loro stesse possono correggere, avviene se è stato un errore di dimenticanza o di sopravvalutazione o sottovalutazione di un fenomeno, ma non è così. Il problema è che il fatto che le carceri, a partire dalla metà degli anni 90, abbiano incrementato la loro presenza al doppio, perché erano intorno ai 30.000 negli anni 90 e sono arrivati, abbiamo visto, a 68.000, adesso sono sempre a 60.000, quindi ancora sono il doppio, qualche mese fa erano più del doppio, è perché c'è stata una scelta di governo, che chiamiamo liberista, quella che ha distrutto il lavoro, ha tolto la possibilità di lavoro e quindi di reddito, di salario alle persone, ha introdotto flessibilità, precarietà, tutte le forme che hanno sostanzialmente ridotto la quantità di salario che le persone portano a casa a fine mese, e riducendo molte fasce proletarie con quel poco salario non riuscivano a campare, quindi sono state costrette ad attivarsi in attività extralegali per le quali possono andare fino in carcere. Quindi è stato un po' un fenomeno di grande internamento liberista. Il liberismo ha prodotto un impoverimento delle masse proletarie, della gente nelle periferie, la gente che si arrabattava con lavori, questi lavori sono crollati o sempre meno pagati, e quindi la mancanza di reddito, di salario per sopravvivere ha costretto fasce sempre più vaste, insomma, di persone degli ultimi di questa terra a cercare reddito per via stragale, quell'attività che ti porta in carcere, perché prima o poi va a finire in carcere. Ecco, questo è stato il grande internamento liberista, e poiché questa linea di condotta dei governi non sembra cessare, anzi si incrementa sempre di più, la flessibilità, la precarietà, i lavori part-time, tutta questa, cioè la riduzione del salario reale, quello che uno prende, mette in tasca, e quello dovuto alla gratuità dei servizi, sono le due forme di salario, no? Diretto e indiretto, questi sono crollati miseramente, quindi la gente, poiché deve mettere insieme il pranzo con la cena e un tetto sulla testa, è costretta a fare attività extralegali, non legali, per le quali appunto si può finire in carcere. Questo è il meccanismo che ha prodotto la grande incarcerazione, per cui non bastano provvedimenti di un tipo o dell'altro per cambiare, bisognerebbe cambiare proprio l'impostazione della politica economica, dei governi, delle grandi istituzioni internazionali, ma non si può chiedere alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, che comunque è un'istituzione di questo mostro che è l'Europa, e non può sanzionare, non poteva, sì, ha fatto un po' di minaccia, ha detto riducete un po' tanto per salvare la faccia, ma non posso condannare l'Italia, perché altrimenti, anche perché le carceri francesi e quelle spagnole, quelle greche, sono più o meno tutte nelle stesse condizioni, quindi avrebbe dovuto cominciare una serie di condanne che avrebbe raggiunto circa l'80-90% dei paesi europei, per cui diventava un disastro l'Europa che combatte i paesi europei, perché applicano le norme di politica economica che è essa stessa, le direttrici che ha dato, no? Quelle che appunto portano poi alla fine la gente in carcere. Allora, 15:36, fa un caldo boia, come potete immaginare, anche qui a San Lorenzo, come probabilmente nelle carceri che ci ascoltano, e né lì né qui abbiamo sistemi di refrigerazione, ed è bene non averli, perché poi non è che fanno che quelli risolvono il problema, anzi forse l'aggravano, quindi questo caldo può permettere qualche piccolo... piccolo errore. Comunque sia, andiamo avanti, perché il problema è grave. Qui affrontiamo un altro problema altrettanto, ancora più grave, forse è come dire la punta dell'iceberg del sistema che è il carcere, che devasta, distrugge le persone, ossia gli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, quelli che erano i manicomi criminali, che hanno cambiato nome ma non struttura. Dunque, finalmente si è fatta una legge di qualche giorno fa, del 30 maggio, approvata nel 30 maggio, la numero 81, e ricorda vicino alla 180, era quella che abolì i manicomi, però anche quella fu approvata molto al di sotto di quelle che erano le aspettative delle battaglie contro i manicomi di quel periodo. Erano gli anni 70, quando tutto il movimento contro la struttura manicomiale, la segregazione manicomiale, cioè il mettere dentro delle persone semplicemente perché si ritenevano diversi dagli altri, questa assurdità, allucinazione veramente becera. Poi quelli sono stati chiusi, non è stata portata avanti la battaglia alle sue estreme conseguenze, come dicevano coloro che hanno portato avanti quella battaglia a tutti i livelli, nelle strade, nei manicomi, a livelli accademici e nelle battaglie fatte all'interno e dentro e ai cancelli di questi manicomi. Però con un abbozzo di legge, la 180, diciamo, perlomeno si è abolito la struttura del manicomio, non il concetto di manicomio, di segregare chi è diverso. Non si è fatti i conti con questa parola che da circa 300-400 anni terrorizza le persone, ossia la follia. La follia è come il crimine e follia sono le due parole, i due diavoli, diciamo, i due demoni messi in campo per terrorizzare le persone, per incutere paura, e sappiamo che la paura è il miglior sistema di dominio, di comando, di governo attuato nei governi, diciamo, nei governi moderni, nella modernità. La paura, attraverso messaggi di carattere di parole buttate lì, appunto la follia, il crimine, sono gli elementi, la guerra, no? Sono stati i termini, le parole che hanno terrorizzato la gente e quindi l'hanno sottomessa alle strutture di potere. Prima ancora c'è sempre stato il governo della paura, laddove nasce un potere, un governo, c'è sempre la paura che permette a questo potere di esercitarsi sulla gente. Però cambia appunto nella modernità con queste parole che hanno terrorizzato. Non si è fatto il conto con la parola follia né con la parola crimine, come abbiamo visto, nonostante la battaglia del carcere e contro i manicomi continui. Allora, però, vabbè, diciamo, dopo tutto il battage, la 81, adesso questa legge dovremmo, diciamo, un po' impararla a memoria anche per vedere le sue applicazioni, se avverranno oppure no. La 81 del 30 maggio 2014 è la legge che dovrebbe portare al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ossia dei manicomi criminali. In che termini? Poi torneremo, perché poi ci proveremo a approfondirla e a impadronircene bene dei meandri, dei meccanismi di questa legge. Tuttavia intanto però parte subito col piede sbagliato, perché proroga l'applicazione di questa legge, quindi la chiusura degli OPG all'anno prossimo, al 1° aprile del 2015, e quindi già un altro anno che è fatto di 365 giorni e notti in cui degli esseri umani, uomini e donne, intorno ai 1600 continueranno a rimanere in questi luoghi di tortura e di devastazione che sono appunto gli OPG. Comunque, perlomeno per quanto dicono le parole di questa legge dell'81, la legge 81 del maggio, del 30 maggio, il manicomio criminale viene considerato come luogo inadatto alla cura, almeno c'è questa parola, il manicomio criminale, così come il manicomio civile, il manicomio criminale è considerato luogo inadatto alla cura, già questa è un'affermazione. Probabilmente dopo il 1° aprile non ci dovranno, del prossimo anno non ci dovranno essere più proroghe. Va favorita invece l'adozione da parte dei magistrati, anche quelli di sorveglianza, di misure di sicurezza diverse dall'internamento, e qui si apre tutta una, attenzione che questo è, si apre una grande possibilità, ma anche un baratro. Come è nel carcere, quando si passa dal carcere alle misure alternative, si aprono grosse possibilità, si aprono le porte, la gente può uscire, ma si può aprire anche un baratro se le misure alternative, parliamo del carcere, diventano situazioni di controllo territoriale. Cioè, se la persona, mentre la persona in carcere è controllata individualmente, ti butta in una cella e tu sei controllato come sei Pinco Pallino che stai lì controllato 24 ore al giorno, quando vai in misura alternativa sei sempre Pinco Pallino che vieni controllato non 24 ore al giorno ma periodicamente, saltuariamente e in maniera, cioè quando desiderano le forze dell'ordine. In più, quando stai appunto in misura alternativa, vieni controllato tu e tutto il tuo contorno di amici, compagni di lavoro, familiari, persone che frequenti. Quindi c'è il doppio taglio anche qui, il passaggio dal carcere al controllo penale esterno, sia alle misure alternative, è un rischio enorme se non costruiamo sui territori dei meccanismi che possano salvaguardare dall'eccessivo controllo le persone che vanno in misura alternativa. La stessa cosa può avvenire e rischia di avvenire per gli OPG. Gli OPG sono luoghi inadatti alla cura e siamo d'accordo. Il magistrato deve favorire l'adozione di misure di sicurezza diverse dall'internamento. Quali saranno queste misure di sicurezza? Qui si apre la possibilità oppure il baratro. Provvisorie, dovranno essere provvisorie o definitive, perché se diventano definitive torna il problema della persona che viene incapacitata, cioè delle persone vengono dichiarate da alcuni esperti, e su questi esperti noi sapete che sul giudizio psichiatrico abbiamo molti, cioè non siamo per niente d'accordo, ecco, questo è chiaro. Riteniamo che la psichiatria non è una scienza, a differenza della psicologia. La psichiatria è un'arte degli stregoni, un modo di dire tu sei folle, tu non sei normale, tu sei malato di mente, tu sei diverso nei comportamenti dagli altri e quindi vai recluso. Vabbè, la reclusione probabilmente con questa legge cessa, però anche la misura diversa dall'internamento, quindi la misura anche qui alternativa, può essere provvisorio o definitiva. Se diventa definitiva, è come il marchio in fronte a queste persone continua a essere, cioè queste persone continuano a essere marchiate, e questo è un grosso problema. Quindi il problema della pericolosità sociale, l'abbiamo detto più volte, è questo il vero problema, sia per quanto riguarda il crimine sia per quanto riguarda la follia. Il problema è che questa umanità deve fare i conti con la pericolosità sociale, che è un termine il più elastico possibile, è un termine demente, un termine che non significa, che vuol dire pericoloso, chi è pericoloso? Per esempio per noi, se sentite questa radio, ma per molti che parlano di questa radio, molti dei movimenti eccetera, pericolosi socialmente sono i governanti, perché fanno dei drammi spaventosi, dei disastri spaventosi, e per la gran parte della società, per interi settori sociali, sono un pericolo. Che so, chi decide uno sfratto è pericoloso, perché butta la gente in mezzo alla strada, sa, più pericoloso di quello. Chi fa un licenziamento è pericoloso, costringe una persona, un'intera famiglia, da quando aveva un salario gli permetteva di sopravvivere, a zero salario, quindi lo costringe alla fame, quindi quelli sono pericolosi. Quindi la pericolosità sociale è un termine molto elastico, ognuno ha la sua percezione di pericolosità sociale, che sono i governanti che fanno le guerre, che provocano le guerre, quelli sono veramente pericolosi, oppure quelli che appunto buttano gente in galera a rotta di collo. Cioè, pericolosi socialmente possono essere le guardie che, quando prendono anche così un ubriaco, una persona che fa schiamazzi notturni per strada, lo pestano a sangue fino a ucciderlo. Quelli sono sì pericolosi socialmente. Quindi, come vedete, la percezione è una percezione molto individuale, la pericolosità sociale, e invece diventa, ed è un dramma quando queste concezioni, che sono percezioni molto soggettive o comunque legate a una parte della società, diventino categorie con le quali tu condanni delle persone. Ora non le butterei più dentro gli OPG, perché vengono dichiarati luoghi inadatti, però anche dei sistemi di controllo esterno possono essere altrettanto devastanti o comunque emarginanti. Il problema è che queste persone rischiano di comunque rimanere emarginate dalla vita sociale, e questo è un problema. Comunque la vedremo approfonditamente questa legge, la 81 del 30 maggio 2014, perché rivede, secondo alcuni, c'è anche un articolo sul Manifesto di oggi di Stefano Cecconi, che è anche lui, oscilla, è un buon articolo, una brava persona Cecconi, dice che è una buona legge, però anche qui bisogna stare attenti, perché ha anche delle cadute, diciamo, nella definire, quindi insomma bisognerà stare molto attenti, anche perché una legge è molto importante come si applichi, non è detto che si applica mai alla lettera, poi verranno fatti i regolamenti, insomma si tratta di stare molto in campana. Purtroppo oggi non c'è un conflitto su questo terreno, si è sviluppato molto attraverso i media quando hanno fatto vedere i campi di sterminio, questi veri lager che sono gli OPG, la gente si è indignata, molti hanno detto che è una vergogna, non è da paese civile, infatti non lo è, lo sapevamo da sempre, e allora si è impapocchiato, prima hanno detto andavano chiusi nel 2013, poi nel 2014, poi nel 2015, poi hanno cominciato, insomma hanno fatto questo straccio di legge, vedremo che cosa dirà. In realtà adesso il problema comunque passa alle regioni, perché i REMS, si chiameranno REMS questi OPG, gli OPG, spariscono gli OPG e saranno i REMS, che saranno delle strutture a livello regionale, e dove appunto posti letto picco, pochi, non con la chiusura permanente, quindi non la reclusione, dei luoghi dove però staranno ricoverati diciamo giornalmente, con la possibilità di uscire. Vedremo come verranno congegnati, non ce n'è manco uno di questi REMS regionali finora fatti, e quindi andrà fatto poi un regolamento di questi REMS per vedere come verranno attuati. E questo è un po' il punto su cui dovremo tornare. Come I love you, black, black and strong and black, black and strong and black, strong. Questo è, ci siamo dimenticati, scusate l'interruzione, poi la rimandiamo la canzone. Questo è il lascito più pesante del modo, diciamo, della struttura, della base del codice penale Rocco, quello del periodo fascista, quello del 1930, perché tra le tante porcherie che ha dentro, questa è quella peggiore, ossia la pericolosità sociale, questa percezione, questo dato così molto aleatorio, che ognuno può decidere quale sia, viene utilizzato per recludere le persone, cioè per punire, per emarginare, per espellere dalla propria situazione. Quindi è un fatto grave questo lascito del sistema fascista, su cui non ci siamo ancora tolti lo sporco d'addosso, siamo ancora pieni di panni fascisti, purtroppo, il codice penale, questi meccanismi, la sanzione, è una serie di concetti fascisti che ancora allignano in questa società, nonostante i cambi di governo, ma quelli sono sigle e non servono, sono imbecillità di sigle, sapete quanti ci hanno tessere diversi, ma hanno una mentalità fascista nel loro concetto, no? Il fatto di recludere dalla società, quindi separare, espellere, deportare persone che secondo non si capisce quale concetto, si comportano diversamente dalla me, ma qual è il comportamento meglio? Perché ci sono due persone che si comportano uguali? No, ognuno si comporta diversamente. La specificità umana è che ogni essere umano è diverso dall'altro. Questa perlomeno dovrebbe essere, almeno questa, un acclarato, dovrebbe essere almeno una cosa che ci mette d'accordo tutti. Invece no, chi è pericoloso socialmente deve essere comunque punito, casomai non più recluso negli OPG, ma in qualche modo comunque sottoposto a controllo penale, e questa è una cosa che chiaramente non va bene. You know, I never told you about this, but there's one guy, somebody I really love. He's never around. We're always taking things that could be all right, that could be nice, and we make them so ugly, so damn ugly. And then we put out the lights on them. Yeah, we make it dark. We put out the lights. Allora, 15:53, l'ultima notizia, diciamo l'ultima riflessione la facciamo su questa notizia che all'inizio ci ha fatto saltare sulla sedia, ma non l'abbiamo letta, di gioia. Perché, diciamo così, sulla Repubblica di ieri è comparso un articolo che titolava così: giustizia, due punti, negli ultimi 7 anni il numero delle evasioni dei detenuti è quasi raddoppiato. Ho detto, oh Cristo, e allora veramente sì, si riprende a scappare dalle galere, è un bel fatto, vuol dire che i detenuti sono di nuovo vivi, a testa alta, con la schiena dritta, attivi, collaboratori, perché l'evasione si fa se si collabora, anche se si... Everybody. Allora, eccoci qua, vediamo. Abbiamo aggiustato il microfono. Il problema, questa la notizia, diciamo, abbiamo letto una notizia sulla Repubblica di ieri che diceva: negli ultimi 7 anni il numero delle evasioni dei detenuti è quasi raddoppiato. Quindi uno ha detto: ah, che bello, così i detenuti sono di nuovo vivi, attivi, creativi, e soprattutto c'è. Cioè, collaborazione, cooperazione, organizzazione interna alle galere, perché un'evasione riesca ci vuole una grossa cooperazione. Anche se uno solo scappa da un carcere, ci deve essere una grossa cooperazione di tutti gli altri, un po' perché la conoscenza, il sapere carcerario per evadere è un sapere che avviene per sommatoria di tanti saperi, è un po' come il sabotaggio in fabbrica, avviene se c'è una grossa cooperazione. I livelli più alti di organizzazione si danno quando si fanno le cose più antagoniste, più di scontro. Non è possibile un'evasione individuale, cioè che sia progettata e attuata da uno solo, o non è possibile un atto di sabotaggio che sia attuato e progettato da solo. Queste sono verità da sempre, è la cooperazione, è l'organizzazione che permette di, dal basso, orizzontale, auto-organizzazione, comunque sempre organizzazione che somma i saperi, le capacità, e quindi riesce a colpire il nemico, il padrone, il carcere, e quindi a rendere libero o vincente il subalterno, insomma. Però il problema, poi andando, purtroppo non è così, perché la gran parte, ci dice l'articolo, delle evasioni è stato di persone che sono andate via dai permessi, quindi senza, non dal carcere vero e proprio, dalle semilibertà. La gran parte sono questi, i dati sono questi. Se erano i punti più bassi, era il 2007-2009, intorno ai 50 evasioni l'anno. Pensate che miseria rispetto ai 700 degli anni 70, cioè, un bel caso. Poi sono saliti a 93 nel 2013 e in questi primi 5 mesi del 2014, dice sempre l'articolo, sono 38 le evasioni. Però appunto la gran parte sono evasioni dai permessi, dalle semilibertà, non rientro dai permessi, è un'evasione, e dalla semilibertà lo stesso, dall'articolo 21, cioè da quando uno sta fuori dal carcere per motivi, questi motivi qui, non rientra quindi quell'evasione. Però il 25% sono stati, vengono ripresi, un quarto di questi usciti. Questi dati l'articolo di Repubblica lo prende dal nucleo investigativo centrale della polizia, al cui interno, pensate un po', io questa cosa non la sapevo e mi ha fatto un po' ridere, all'interno del nucleo investigativo centrale, il NIC, il famigerato NIC della polizia, agisce la sezione catturandi. La sezione catturandi, come dice la parola, è quella che va a cercare, c'è una sezione apposta che va a riprendere gli evasi che scappano. E vabbè, insomma, funziona così questo cavolo di paese. Però una riflessione va fatta, anche se breve, perché siamo in chiusura. Abbiamo visto che il punto più basso era arrivato ai 50 evasi al di sotto, tra il 2007 e il 2009 è stato il punto più basso di persone evase, che erano un decimo, meno di un decimo di quante evasioni avvenivano negli anni 70 e nei primi anni 80. Che cosa era successo? Perché queste ridotte evasioni? Perché era aumentate le misure di sicurezza, i muri alti, sistemi elettronici? Ma che? Non è cambiato nulla di questo. Il problema è che perché i detenuti sapevano di non avere appoggio all'esterno, fuggire dal carcere, e anche perché non c'era una grossa organizzazione, non c'era più interna alle galere, che abbiamo detto, per fare anche una sola evasione ci vuole una grossa organizzazione interna, e quelle che raccontano come le fughe isolate sono i racconti fantastici. La realtà ci dice che per far scappare anche un solo detenuto ci vuole una grossa organizzazione interna. Non a caso i secondini, quando c'è un'evasione da un reparto, puniscono tutti il reparto, perché lo sanno anche loro, il gioco è scoperto. Si sa che se non c'è cooperazione l'evasione non riesce. Questo fatto significa, questo calo di evasioni è dovuto al fatto dell'assenza, della percezione che hanno i detenuti, che non hanno più un sostegno esterno. Se scappi dal carcere, devi avere una casa che ti accoglie.